Ciao a tutte e tutti da Frey, dalla redazione di Vallun, www.radiovallun.info. Ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Nota Piedi Pagina. Un appuntamento che però noi vogliamo mettere in viaggio sin da subito, perché immaginiamo di trovarci alla stazione di Bologna, non quella che vediamo adesso, ma quella di una quindicina d'anni fa, quando la notte passavano ancora quei treni che Trenitalia ha ben pensato di tagliare, che erano i cosiddetti treni del sole. Quelli che da nord riportavano a casa gli emigranti, i nostri emigranti che tornavano a sud. Erano treni che da Milano accoglievano i tanti muratori che alloggiavano magari nei dormitori come la casa del muratore, che accoglievano quelle cabine sempre troppo strette dove la gente si ritrovava a dormire magari anche sui portabagagli oppure nei corridoi, e accoglievano quegli emigranti che tornavano dalla Germania, dalla Francia. Per tornare dove? Per tornare dove splendeva il sole. Sembra quasi ironico dirlo così, ma in realtà non lo è, perché su quei treni espressi, diretti, treni notturni che per due soldi permettevano alla gente di tornare, passava la storia del nostro paese, una storia che non è scomparsa naturalmente, ma che si fa finta che non esista più, perché ancora il nostro paese è un paese di gente che fatica, che ha bisogno di spostarsi per trovare lavoro. Naturalmente una delle fermate più importanti di questi treni era quella di Napoli. Immaginando di essere partiti da Bologna, ci siamo fermati a Napoli. E dalla stazione di Napoli Centrale andiamo verso il cuore pulsante della città di Napoli, in quella lunga arteria che attraversa tutta la città, partendo da sud e andando verso nord, che spacca Napoli. Ecco, il vero viaggio di Nota Piedi Pagina di oggi comincia proprio qui, a Spacca Napoli, la strada che attraversa i quartieri spagnoli, su cui c'è una narrazione oggi molto ricamata dal turismo di una città pulsante, di una città viva, condannata a una miseria cronica. Noi invece questa strada la percorriamo, per l'appunto partendo da sud per andare poi verso nord, nel dedalo dell'enorme hinterland della città di Napoli, per cercare invece le voci di una Napoli ribelle. Ribelle e rivoluzionaria, che quella miseria non se la vive come una dannazione che il Signore ha mandato, ma come un qualcosa che si può abbattere. Anche Vesuvio, una delle canzoni più note del bagaglio della musica popolare napoletana, racconta di lotta e di fatica. Questa canzone, che è stata resa celebre in tutto il mondo dal fatto di essere entrata nella colonna sonora della serie dei Soprano, è una canzone degli Spacca Napoli, un gruppo che oggi ha preso il nome di Spacca Neapolis 55, ed era stata pubblicata nel disco Lost Soul, Anime Perse, con l'etichetta Real World Virgin, ed è una delle canzoni che ci guidano per l'appunto nel viaggio di oggi. Abbiamo detto che è una canzone che hanno pubblicato gli Spacca Napoli, ma in realtà è una canzone che sale ancora più indietro nel tempo, perché data degli anni 70, è una delle canzoni che fanno parte del repertorio di quel grande laboratorio musicale e politico che è stata Pomigliano d'Arco. Pomigliano d'Arco è la Stalingrado del Sud, perlomeno così è stata raccontata nel corso di tutti gli anni 70, cioè una cittadina dell'area vesuviana che ha visto nell'arco di pochi anni cambiare radicalmente. Da zona prevalentemente agricola è diventata una zona industriale. In questo passaggio si rischiavano di perdere delle tradizioni, dei riti come i pellegrinaggi alla Madonna delle Galline, che avevano accompagnato quel territorio per secoli e che l'industrializzazione, rappresentata poi soprattutto dall'arrivo dell'Alfa Sud, sembrava travolgere. Beh, negli anni 70 qualcuno aveva deciso che quelle tradizioni non andavano perse, anzi andavano rilanciate. Ecco giusta d'amor a mano, torna a casa fumigliana. Piccia di che canta fa, che ci manca l'un mangià. E non vuoi parola ritta, lasciami che vene ritta. Ma venne senza compagna, cinta catena, romondaccia. Sona, sona, figlia, si è stata morra sulla Sona, sono un deformato, la gente lo abbandona. Pomigliano d'Arco è stato, come dicevamo, un laboratorio musicale, un laboratorio musicale che è stato costruito veramente dal basso. Nel 1974 prende piede un bellissimo laboratorio che è quello del gruppo Operaio e Zezi di Pomigliano d'Arco. È un gruppo fatto da appassionati di musica popolare, ma di lavoratori, lavoratrici, di proletari dell'area vesuviana che rimettono in scena quelle che sono state le grandi tradizioni, partendo dalla una sorta di ballo spettacolarizzato sui rituali del corteggiamento con delle allusioni sessuali, diciamo, un balletto abbastanza licenzioso, ecco. Partendo da quello si è sviluppato poi tutto un grosso percorso di ricerca, di riscoperta della tradizione, riscoperta delle sonorità, riscoperta dei riti, ma allo stesso tempo non per farne un feticcio, un qualcosa di immobile del tempo che è quella che è l'approccio che poi rischia di aprire la strada alla turistizzazione dei territori. No, le canzoni popolari hanno raccontato sempre il malessere del popolo, lo hanno fatto nei lunghi secoli di civiltà contadina e negli anni 70, dicono a Pomigliano d'Arco, lo può benissimo fare anche per la classe operaia, perché la classe operaia non sta bene, è scontenta. E quindi attorno alle figure dei fratelli De Falco, due grandi ricercatori, ma anche attorno alla figura molto interessante di Salvatore Alfuso, detto Sciascià, un cantore operaio che poi si staccò dal gruppo di Ezzezi per fondare un altro collettivo, il collettivo Operaio Le Nacchere Rosse di Pomigliano d'Arco, andasse a raccontare quello che stava vivendo la classe operaia in quel periodo e quelle che erano le sue lotte, perché la povertà non è un qualcosa a cui occorre essere condannati per forza, non ha nulla di romantico, ed è questo il prezzo che si paga soprattutto in certe rappresentazioni dell'Italia meridionale e di Napoli in particolare. Per capire questo tipo di processo culturale, ma soprattutto politico, partiamo da una canzone che è quella che è rimasta la più nota del repertorio degli Zezi, ma anche delle Nacchere Rosse, e che troviamo anche nel disco degli Spacca Napoli di cui avevamo parlato prima, A Flaubert. È un canto popolare che è un canto di lotta e di sofferenza. La Flaubert che cos'è? Era una fabbrica di fuochi d'artificio, di pistole giocattolo, che all'ora di pranzo dell'11 aprile del 1975 a Santa Anastasia, il comune dove si trovava la Flaubert, esplose. Nulla di più semplice, nulla di più drammatico. In quell'esplosione, l'11 aprile del 1975, morirono 12 persone, tutte giovanissime. Teniamo in considerazione che l'uomo più vecchio, fra molte virgolette, fra le vittime, aveva solamente 42 anni, il più giovane 20. E chi erano questi operai? Erano ragazzi del posto che avevano visto un'occasione in un contratto in nero, senza tutele, senza assicurazione, siglato con una stretta di mano, avevano visto un'occasione per sfuggire alla povertà. È una storia che fece epoca, ma di cui oggi fa fatica a trovare traccia, se non per questa canzone sviluppata proprio, è nata proprio a Pomigliano d'Arco. C'è una targa un po' consunta dal tempo, non ci sono foto né delle vittime né del luogo della strage, ma è stata una delle più grosse stragi operaie degli anni 70 meridionali. Bene, per ascoltare questa canzone ci vuole molto orecchio. Nella sua versione originale si chiudeva con un inno di rivolta, un inno al cambiamento, un inno alla lotta. Andiamo a prendere un pezzettino che secondo noi riassume in maniera molto chiara quello che è il senso di questa canzone e il senso di questa storia. Sta gente senza cuore, che a bandiera tricolore cerca da riparà tutte sbaglie che fa. Ma voi non sapete qual è il dolore nostro. Cumigliato con tricolore 12 lavoratori. Ma noi l'hanno capito. Cagniamo sti colori, pigliamo sti padroni e mannammo l'affanculo. E qua disperazione, sti fascisti e sti padroni, facimmene un montone e un grande fucarone. Certo, questo è un momento e cagnà, e a guida nostra è grossa, e a bandiera rossa. Compagni, per luttà non sa d'aver pietà, ma questa è la verità, o comunismo è la libertà. Ma perché per fatica pura morte a m'affrontà? Noi ci ascoltiamo a Flaubert nella bellissima versione realizzata dalle Nacchere Rosse, Enzo Gragnaniello e Dario Fo in un disco del 2005, e la dedichiamo a tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici che ogni giorno escono e non sanno purtroppo se riescono a tornare a casa, perché sul luogo del lavoro non si rischia di morire, no, si rischia di essere ammazzati, e le parole, ricordiamoci, hanno un peso. April a Santa Anastasi nu trattano rumore sentite che paura giaceva fatica manca forze cammana pavia ma domanda e sta botta che sarà. A massari romana, una fabbrica è scoppiata, la gente che fuggeva e l'altra che chiagneva. Chi è vecchi tornava, pa paura e la di botte, arrivai a Nanzo Cancella, Madonna che maci. Perdonate, perdonate, non un uomo sorgavate, una vita da pregata, che un Cristo è santonata, e l'Europa è santonata, a morte come deve, ed è stata seppellire, seppellire e perdonata. In da voli e te trasi, ma senti e te svani, terra na capa steva io corpo non tene cammine che tristezza ma vo tengo pa